Com'è la salvezza? Salvezza che vuol dire? Salvezza di che cosa? Comincia e come può venire da noi? Faccio una piccola riflessione allora. Quando si tratta della vita reale, la mia, la vostra, quella delle persone, occorre prestare attenzione all'inizio, dove nulla è ancora deciso, dove ogni rischio è ancora aperto, dove ogni progetto esistenziale è ancora in sospeso. Noi guardiamo al futuro, all'attesa, nel desiderio, nella speranza, che anche nel dubbio, in queste settimane dell'Avvento, siamo persone che attendono, si dice così, non so perché, ma comunque si dice così. Che attendono, cercano come se, in un certo senso, tutta la nostra vita consiste nello sperare, nel credere che l'essenziale deve ancora avvenire, il mio essenziale deve ancora avvenire. Come se l'evento decisivo non è ancora accaduto. Siamo aperti. Marco però ci suggerisce anche queste parole nuove. Ripropone promesse e le fa sue. E le comunica alla comunità dei suoi fedeli. Due voci gridano nel deserto di Giuda, a distanza di 5 secoli, eppure all'unisono. La voce gioiosa di Isaia grida: ecco il tuo Dio viene, ditelo al cuore di ogni creatura. Arriva a me, arriva a voi. C'è poi la voce drammatica di Giovanni. Giovanni delle acque e del sole rovente, mangiatore di incerti e di miele, che ripete: ecco, viene uno dopo di me, tra poco, è il più forte, e ci immergerà nel turbine santo di Dio. La poesia e il dramma, un po' come lo sgranarsi della nostra vita, tra poesia, tra memoria dello stupore e la memoria del dolore. Isaia, voce del cuore. Dice: viene con potenza. Notate bene questi passaggi. Ma aggiunge subito: viene con la potenza della tenerezza. Viene sul patto, sul petto, tiene con sé sul petto gli agnellini più piccoli. E conduce piano piano le pecore madri. Un'immagine immensa. Tenere gli agnellini deboli sul petto e condurre piano piano le pecore madri. È la potenza possibile a ogni uomo e donna e di ogni creatura. Due voci parlano dal venire di Dio. E tutte e due usano lo stesso verbo, sempre al presente, un eterno presente. Dio è adesso che viene. Mi colpiscono le immagini chiare del grido, preparate la strada, raddrizzate i suoi sentieri, appianate la nella steppa la strada, ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasforma in piano. Immagini stupende. Perché, mi chiedo, questo linguaggio? Perché? Un linguaggio che risuona, dico, nella mia coscienza, perché oggi Dio viene, è adesso che è lì la mia porta. Perché la strada della vita possa essere percorsa da tutti, anche da quelli che faticano a vivere, quelli che soffrono, quelli che sono impossibilitati, quelli che sono distratti, quelli che sono i furbi. Ma chi nel deserto può ascoltare la voce di uno che grida? Sente se grida, ma chi può sentirlo? Sono forse le urla di un disperato, di un pazzo? E da ultimo, questa figura di Giovanni Battista che si presenta. Anche lui nel deserto grida. Si presenta a battezzare nel deserto. Dio viene anche oggi nel deserto. Poi i titoli dei giornali fanno il deserto, naturalmente. Dio viene anche oggi nel deserto. Lo sappiamo tutti che il cammino che conosce, che riconduce alla vita, passa attraverso il deserto. Chi di noi non ha avuto gli oscuramenti della vita? Deserto, ritorno all'essenziale. Quando si usa questa parola nella Bibbia, vuol dire ritornare all'essenziale, a quella povertà interiore dove siamo autentici. Vorrei dire là dove siamo ancora innocenti, dove siamo consapevoli, dove non teniamo, e non teniamo per il nostro limite. Dio viene nel profondo della sua umanità. Il deserto è quando si è fuori dalla terra dei faraoni, ma non ancora nella terra promessa, la famosa terra di mezzo, di cui oggi si parla sui giornali, la terra di mezzo. Allora, luogo della profezia, Dio viene. Raddrizzate, preparate, perché quella è la mia via. Chiudo. Tutto questo mi fa dire, Giovanni è una figura essenziale per Gesù Cristo, in quanto rinvia alla necessità di una mediazione di un uomo per poter preparare la strada al Dio che viene. C'è bisogno di noi. Se non ci siamo noi, ognuno nella sua parte, Dio sta là, sta in silenzio. Così questa figura dentro in questa pagina che presenta gli inizi del Vangelo diventa la memoria degli inizi, inizi della fede e quindi il battesimo. Memoria del battesimo, memoria dell'azione dello Spirito che agisce comunque in ognuno di noi se abbiamo l'attenzione a far silenzio qualche volta e ascoltare, dell'ascolto e della parola. Così continua la nostra sapiente attesa. Gloria a Dio nell'alto di Dio.